roba. Io sono proprio amante della cucina di Mar. Non tanto per il pesce, però per i frutti di mare, per i molluschi e qualche crostaceo, tipo i gamberoni. Ma la costa non mi piace tanto, ma i gamberoni sì, mi piace anche la cicala, l'astice, però la langosta non mi dice molto. A me mi piace molto la cicala è più buona della langosta, anche la cappa marina. Cappa, no, io la langosta non ho mai mangiato, non so neanche com'è, vabbè, comunque sì, vabbè, anche io frutti di mare, quelle cose, sì, comunque anche pesce, un po' di pesce, non tutto però. Sto facendo con un rumore sottofondo. Io sto facendo con un rumore di sottofondo. Aspetta, spengo la luce. Perché poi c'è anche la ciabatta, quella con il LED, avete detto una volta, boh, non lo so, provo. Scomparso, deve essere la ciabatta. Ho capito, va bene. No, io sì, le ho mangiate le ragoste, ma le ho mangiate anche appena pescata, perché sono andato a un pranzo dove c'erano un sacco di pescatori e hanno portato verso Alghero e l'ho portata alla ragoste, c'era di tutto, c'era la cosa che mi è piaciuta di più è la pasta ai frutti di mare, mamma mia che buona, c'erano anche le capre marine in mezzo. Mamma mia che buona, veramente, la pasta con i frutti di mare è non la cosa più buona del mondo, però secondo me è veramente buona. Roberto, tu confermi o ribalti la situazione? Roberto non c'è, si è allontanato. Diciamo che il pesce io mangio, il pesce spada che mi piace, è fatto in una certa maniera e basta. E anche il tonno, però pesci così dove sono le spine, no. Ehi cappa, comunque saluta Roberto, cos'è andato a dormire già da presto o cosa? No, ha detto che si è allontanato un attimo. Ah cappa, va bene, torna fra poco. No, per sapere, perché mi ero allontanato e non l'ho sentito, quindi che c'è rimasto? C'è ancora Emanuele anche. Ci siamo io, tu e le rose. Emanuele, allora parliamo di apparati, dai, tu ne hai due, meno uno. Due, meno uno. No, per il momento no. Ma non ne metto più, c'è tutta gentaglia, si sono attaccati un po' una gazzata perché digitando non mi sono andate delle lettere, ho messo una lettera in meno, capito? E questo qui si è messo a dire cosa vuol dire, e io gli ho scritto che se fosse stato più intelligente l'avrebbe capito, come hanno capito gli altri. Comunque, lasciamo perdere, va, se bussa a bulimizzare, a fare, ma non ammala. No, è una bomba, se tu lo metti in macchina quello arrivi da tutte le parti. Io parlavo dal Porto Torres, dalla macchina, parlavo con Alghero, che è un po' difficile arrivare dal Porto Torres Alghero. Eppure ci arrivavo, parlavo con la buona anima di Filangelo tranquillamente. E vabbè, adesso vediamo, dai, sono incerto se prendermi quell'apparecchio che sei tu, oppure se farmi l'impianto in macchina, ma la macchina è nuova, quindi sono un po' così, capito? Nell'altra macchina c'avevo l'antenna al centro cappotto, era una bomba, c'avevo la turbo 2001 e pompava, si vedeva prima l'antenna e poi la macchina. E la turbo 2001, quella della LEM, un'antenna, una signora antenna quella lì, mi sa che me la ricompro, solo che è pesante per la macchina, capito? E adesso vorrei mettere una base magnetica, ma buona che mi graffia la cappotta e mi gira le scatole, perché la macchina è nuova, capito? Sì, perché poi tocca fare tutto l'impianto elettrico, l'impianto della radio, eccetera, fissarla, e dovrei bucare il cassettino, perché ci sta nel cassettino, bucare dietro, far passare i fili da lì, e poi arrivare alla batteria, attaccare la batteria, e così mettere l'antenna magnetica, anche che se ho un bidone a me non mi piace, c'è poco da fare, a me mi piace una cosa fatta bene, che non si vede nulla, macchina nuova. Ma ascolta, tu la patente ce l'hai, sì, e la macchina non te la prendo. E vabbè, già lo troverai prima un po' un lavoretto. Avanti. chiamati Giacomi? Ehi, io sono Giacomino, Robertino, Riccardino, poi cosa c'è altro? Adesso me devo ricordare, Riccardo Fugi, così almeno me lo ricordo. Via, va bene, siamo qua. Adesso dovrò entrare anche Tonino sicuramente, stanno mangiando. Cava cava, ma te ne stai andando? Ok, se non rientri ritieniti salutato, dai, avanti Riccardo. Ehi, ciao Emanuele, come ha detto Gianni, se non rientri ci sentiamo, ti saluto. E anche Roberto, che fine avrà fatto, scomparso, quindi siamo rimasti io e te. Cavaga, Roberto che si assentava un attimo, quest'attimo stavo diventando ore. Sì, boh, vabbè, aspetta, mi stacco le cuffie. Vabbè, sei andato qui a vedere la tracciabilità del pacco? Sì, sì, sono andato. Vabbè, dov'è? Ancora nella città da dove è stato spedito. Idolona. Sì, ma penso mercoledì ti arrivi. Cappa, speriamo che arrivi il prima possibile, che a provarlo. Tu volevi il suo microfono. Sì, mi piace. È bello il microfono. Non c'aveva l'originale, capito? Ma vabbè, non c'è problema. Se ne potete adattare un'altra cosa, vabbè, se no non c'è problema. Mi piace comunque quel microfono, è bello. Non ha trovato l'originale, ha detto che ce l'ha, però non è riuscito a trovarlo, ne ha parlato con me. E mi ha detto che lo cercava, però non mi prometteva nulla, quindi gli ha messo quello lì. Ha detto già va bene lo stesso, ma non è l'originale. Lo so, ma l'originale l'ho guardato, è un palmare normale, quello mi piace di più. Ma tieni, non c'è problema, stavo scappando. Bello cromato, è particolare, dai. Sì, no, niente più di no. Sì, lo vedi, e beffa. Buonasera, Break, eccetera, 33, 51, 29, Bari, 67, 67, a tutti, Napoli, secondo estratto. E già diventato galoppante. Cappa, cappa, dai. Rilassati un po' fa, che ti ho visto molto stressato stasera. Sì, stressato, la manetta, già le sette cose, mamma mia, veramente bestiale. Speriamo di non caderci con la testa, che sono già scemo, figurati poi con qualcos'altro, ti dice tutto, boom. Ciao Fabio, ben ascoltato, meno male quello che rianima la 27 quando c'è un po' di tristezza. Quello sei tu, quello sei tu che stai rianimando speranze di noi radioamatori che ormai siamo anziani, abbiamo i dolori, abbiamo l'artrosi al dito a schiacciare, capito? Già lo so, però c'è solo tristezza ormai. E perché? Perché ricordi tristezza? Non vorrò dire la tristezza. Cioè io non l'ho sentito, ma ho capito che era lui, perché era il buio nella stanza e si è illuminato tutto. Deve essere lui che ha schiacciato la portante. Ho schiacciato a tutti, cacchio. Ok, comunque ieri notte ho fatto orecchie di porco, se vi viene, poi ho detto che sapevo se parlava male quando non ci sono io. Ma stavamo parlando male, non mi risulta. No, sto scherzando naturalmente. Lo sai con cosa vi stavo ascoltando? Gianni e coso. Riccardino per un attimino ho sentito, poi è andato via e coso. E Fabio, c'ho quella specie di coso, di radiolina come quella che c'hai tu. Fabio, l'hai vista che mi hai detto che l'hai trovata eccetera eccetera, c'è un antennino, sarà 20 cm filo, e l'ho coricato nel letto da un'altra parte, me l'ho messa vicino perché la notte la tengo vicino, vi ascoltavo con quella radiolina. Figurati, è che non lo sapevo, se no avrei parlato male se sapevo che vi all'ascolto. Aspetta, avete parlato in due, no, sino a 30 MHz e più fa da 0, da 500 a 30 MHz fa, e più c'ha la banda aeronautica, 8800. No, fammela vedere, mandami in conto, dai, che sono troppo curioso. Ma tu devi sentire come riceve bene, perché c'ha DSP, io sono rimasto a bocca, mica dentro camera da letto, sono dentro un fosso chiuso, tutto cemento armato e cosa, e sentivo a Gianni doppio room e cosa, a Riccardino, a te vabbè tu arrivavi fortissimo, perché siamo vicini, ma con quell'antennino ti sono rimasto a bocca aperta, ho messo 27.075, cazzo, ho detto infatti la voglio provare, mi voglio togliere il gusto di attaccare l'antenna esterna, sono sicuro che riceve meglio del 44, non ci credi, perché se riesce già a ricevere senza antenna con un pezzo di filo cagato, figurati se gli metti un'antenna esterna. C'ha DSP incorporato con la radio. Cavolo, beh. Ma mandi una foto a vedere il modello, per favore. Sì, se aspetti 2 minuti sta lavando, dai, continua. Sono qui, ma c'è poco perso, ma sono molto curioso, Mi piacerebbe molto capire com'è, perché la mia, se questo non ce l'ha, è meravigliosa su alcune cose, però non ci arriva. E per ascoltarti devo sempre usare il sensor scanner, che ormai, cioè, ce l'ho da più di 20 anni, anzi ce l'ho più di 30 anni, ce l'ho cambiato. Fabio! Cappa di Cattini, ti ho sentito col tornado, Cappa, cosa ti sembra? Scusa se ti ho disturbato prima, non lo sapevo che avevi quel problema. No, negativo, non puoi impegnarmi. Non potevo, anche perché la situazione è un po' incagnata. Ma riusciamo, ricapito, se da ogni cosa imparano questo. Ti rimbocchi le maniche, forza di volontà e ogni cosa la puoi ottenere, ogni cosa. Soprattutto tu con il tuo carattere già ci riesci, non c'è problema. Speriamo. Sai chi è anche di carattere? Proprio Rumma c'ha un carattere veramente, veramente apprezzabile. Sì. Grazie, ti faccio un inchino. Non lo fare arrossire a Gianni. Oh, comunque se sapevo che Robert era l'ascolto ne avrei parlato male, così almeno entrava. Cavolo, se sei fuggita questa cosa, davvero. Potevo anche mandarti messaggi e far finta di parlare male, poi gli avrò mandato i messaggi. Vabbè, ma noi lo facciamo al telefono così non ci sente. Ma c'è più gusto di te a parlare male, no? Cioè tipo che ti mando un messaggio, o già, aiutami. Facciamo finta di parlare male di Roberto, capito? Così, hai capito di che sto parlando, queste cose così, capito? Che per dire Drecco? Ciao a tutti, bella conversazione. Non mi sembrava molto corrente questa parola. Io adesso mi immagino che Roberto è incazzato, deve essere tremendo, capito? No, ma poi anche Roberto ha un bel carattere, dai. Ha un bel carattere. Non le chinate. No, non sapevo manco che io l'ascolto, ti sei allontanato. Ho anche detto che se sapevo che io l'ascolto ne avrei parlato male, quindi saresti entrato. Ma sinceramente non mi ne ha fatti nulla, potete dirmi tutto quello che volete. Naturalmente stai attento dove parcheggi la macchina, poi. Cazzo allora, perché cosa sei di quelli che mettono a fuoco? No, io le faccio a pezzi di ricambi. Ah, ecco, capito. In modo che poi vada a te aggiustarle. Comunque esisteva un carrozziere che... avevano sgamato un carrozziere che faceva buttare le pietre nelle macchine per rompere i vetri e roba del genere, per portarle da lui aggiustate. Io lo so, è successo qua a Sassari, sono successi dei gommisti che mettevano i chiodi, che riempivano le strade di chiodi, sono successi dei carrozzieri che hanno graffiato le macchine, ma più di uno ce n'è stato. Buongiorno, ti parlo di un gommista che conosci, Robè. Che poi Robè, uno sceglie dove andare, non è che per forza le porte da lui, magari lui fa il lavoro, c'è il lavoro nel senso che rovina le macchine col pericolo che lo trovi e poi la porta da un altro. Beh, purtroppo quando c'è carestia, poi c'è gente, bisogna arrangiarsi. Io sto scherzando, ne ho conosciuto più di uno che ha graffiato delle macchine vicino a dove c'era l'officina sua e ha graffiato, te l'ha pure detto. Per il coraggio, no? Se non trovi uno così, cosa li fa? Oh, Robè. E cosa li fai? L'hai vista, Fabio? L'ho vista. La cosa più carina è quel maschio, quella scritta che c'è sulla sinistra, sopra l'altoparlante. Si legge un po' male, sembra Kenwood, giusto? Radi Wow, allora sai cosa c'ha di bello questa radio, che me ne sono accorto da poco? C'ha l'indicatore, quando tu ricevi un segnale, ti dà il rapporto segnale disturbo in decibel del coso, del segnale ricevuto. Pure, cazzo che figata che è, io come la vado a cercare quando la becco? C'ha 500 memorie di coso, di stazioni memorizzabili. Guarda, è una cagattina, perché è quanto un cellulare, di larghezza, diciamo di lunghezza un po' più piccolo, un po' più alto di un cellulare di quelli da 6 pollici, classici, diciamo. Però c'ha una ricezione, guarda, lo voglio provare con l'antenna esterna, mi voglio togliere il gusto, perché devo fare, siccome c'è il connettore a mini jack, devo farmi un adattatore e poi metterci il PL e provarlo con la mantova, a vedere cosa tira fuori. Ti sto dicendo, ieri dentro casa, in camera solito che non ricevi nulla, anche le stazioni, per dire, con la tenda chiusa, molte stazioni bloccate in cui c'è difficoltà, secondo me. Come ho sollevato l'antennina, vi ho ascoltato tutti e tre, Riccardino di passaggio, ma te, vabbè, tu sei vicino, e già nel doppio numero vi ho ascoltato perfettamente. Guarda, io penso che le dimensioni della mia, da quale mi ha detto, come la vedo, cioè dal rapporto tra altezza e larghezza, sembra veramente l'accatore la mia, con i tasti un po' diversi, poi nella mia figlia di display, forse pure questa, ho visto 500 stazioni, ho visto indicazioni di frequenza, cioè addirittura allo sinistra, cioè incredibile, veramente sto guardando le specifiche dei tasti della seconda posizione, cavolo, è un apparecchietto secondo me che è proprio quello, quegli apparecchiettini miei, capito? Le cassatine, tipo la RZ1 che sembra una cassatina, poi alla fine lo accendi e c'è tutto un mondo dentro, c'è una figata, proprio bella, complimenti davvero. Allora, c'è l'interessante che c'ha gli accumulatori, prima di tutto, lo ricarichi con la micro USB, guarda, ti dico le frequenze, a parte 87.508, vabbè c'era, anzi fa da 64 a 108 esattamente, per dirlo, poi c'ha da 522 a 1620, poi da 520 a 1710, poi da 150 a 450, da 1711 a 29.999 e poi la banda aerea da 118 a 137, ed è, ti posso dire, le HF sono veramente di qualità, le ascolti veramente bene, c'è la scansione, puoi aumentare il ciclo di cosa, gli step di cosa, di ricerca, la puoi fare un po' più veloce o meno, i salti di sintonia. Sì, sì, proprio per apparecchietto, bello bello, penso che ho avuto soddisfazione dalla mia, che è molto più semplice di questa, eh. Vabbè, la mia non mi sta proprio fatta apposta, sembra fatta apposta per ricevere da, dagli 8 ai 15 MHz, se l'avevo fatta apposta, perché è allucinante, cioè mi sta per qualche input, ma è roba da matti. Ma poi c'è carino, l'hai visto, c'è la tastierina, lì puoi scrivere la frequenza, cioè per dire puoi scrivere 87.5 oppure 1510, sì, a seconda della banda dove sei naturalmente, e ti appare tutto, poi il display è completo perché c'è anche il timer, l'orologio, c'è un sacco di indicazioni, guarda, neanche le conosco tutte le funzioni di questa radio, radiolina, è una cagattina, ti ho detto, un cellulare, uno classico da 6 pollici, questa è più piccolina come dimensioni. Poi c'è il tasto reset pure, che non l'avevo mai visto in una radiolina il tasto reset. È utile perché a volte con voltaggi bassi delle batterie può capitare che l'informazione venga cambiata e c'è la possibilità, magari se non è mai successo per certi motivi, però può capitare che ci trovi, come l'autoradio, ti trovi scritte strane, ti rimane la scritta RDS mentre c'hai il CD o la cassetta, capito? Cose così, è molto utile. Io credo che per resettare la mia debba aprire e trovare il tipo di processore, farti un po' di cello, roba del genere. Sì, ok, riprendi Gianni e poi ricordi. Sì, allora. Ehi, tutte e tu le trovi queste cose, non vai? Te l'avevi trovato anche con l'amplificatore che mi avevi detto che ti avevano portato da Furi, che era micidiale con l'amplificatore, che era piccolo ma ci aveva un suono allucinante. Sì, sì, ma già lo conosce molto bene Fabio, e ti amo, ne ho tre di questi. Il primo è quello americano, poi gli altri sono venuti dopo, però sono sempre della stessa pasta, dai. Il primo è quello a batteria, anche quello è un giocattolino, se lo vedi è un po' più grande di un pacchetto di sigarette, tutto è in plastica, se lo vedi, addirittura se metti i cavi si rovescia, talmente leggero, peserà 15 grammi, una cosa. Gli altri sono un po' più performanti perché hanno i dissipatori, eccetera, ma questo non c'ha niente. C'ha solo il volume che fa anche da interruttore d'accensione, è un led piccolino, non c'ha neanche l'ingresso per le cuffie, niente. Vabbè, teoricamente le cuffie le puoi collegare, anzi no, su quello lì non si possono collegare, c'è scritto proprio di non collegarle le cuffie, su quello lì, puoi attaccare solo la, perché se no lo metti si brucia, c'era scritto proprio raccomandato di non collegarlo, l'uscita, siccome c'è il mini jack per attaccarlo, per farlo funzionare, e poi c'è l'attacco degli altoparlanti, c'è scritto proprio di non utilizzare le cuffie, perché se no lo rompi. Ma che? Servirebbe uno, Roberto, amplificarmi il piatto, capito? L'ho comprato la GBC1, però non è che sia al massimo, capito? Devi vedere che tipo di punti la metti, perché per amplificatori fono bisogna stare un po' attenti. Il piatto è solo di quelli che hanno la frizione, cioè dei professionali, capito? Sì, ma a livello di uscita del coso, a seconda che testina utilizzi, devi mettere un preamplificatore fono adatto per quel tipo di segnale. Perché c'è anche l'equalizzazione RIA, un sacco di parametri che vanno rispettati. Mi chiedi di confermare a Fabio che lui è abbastanza molto più preparato di me per certi versi. Sta adesso registrato. Sì, già, siamo un sacco di testini di puntina. È una cosa un po' particolare perché devi riuscire ad accordare il tipo di amplificatore che hai sia poi con l'ingresso dell'amplificatore che soprattutto con la testina e puntina, no? Dunque succede che un ottimo amplificatore con un'ottima testina suona in un modo, tu magari sei un amplificatore relativamente scalcino, purché sia RIA che sia MM, se è un MM o un MC, se è un MC. Magari il calcino lo attacchi a quella puntina che stava suonando poco prima con un ottimo amplificatore e senti che diventa una cosa straordinaria. Sono queste piccole cose che, insomma, tante volte con un sacco di studi, un sacco di attenzione, un sacco di soldi, non è capitieri. A volte sei un po' distratto, quelle due cose esce un mondo nuovo. Avanti, Brecco. Avanti. Brecco. Avanti, Brecco. Ragazzi. Io vado a magna, vi saluto a tutti e mi faccio una scorpacciata che ho fame e vi dico tranquilli, oggi già ve lo dico di nuovo e ci sentiamo più tardi, facciamo andare avanti il break, ascolti Spinalino per i saluti, comunque ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Gianni e ciao Fabio, a tutti gli altri eventuali in ascolto, spero di sentirvi più tardi, fate in fretta e non scappate. Tranquillo Riccardo, lasciamo qua. Avanti questo break, ciao, avanti Robert per salutare a Riccardo. Ciao Riccardo, ben sentito, non so se dopo ci sarà o se no eventualmente ci sentiamo in altre situazioni. Il PTT ricordati a schiacciarlo al centro, non lateralmente, se no non ti do bene i contatti e ti fa brr. Vai dai, Fabio. Scappa mia cosa finalino per saluti a Riccardino, così faccio anche la rima, adesso che ho fatto la rima sono più bello di prima. Dunque Riccardo, ci vediamo dopo la pappa. A parte il Brecco, si può? Brecco. Nati, avanti. Avanti il break. 5SL, buonasera Roberto, buonasera a tutta la ruota, si qui è chiova Rosuto, ma già sta uscendo, non pensi il break. Già sta uscendo, però forse non stavi ascoltando, ti avevamo lanciato 3 o 4 volte. Ma è cambiato apparato o sempre lo stesso? Sempre lo stesso, stavo provando, diciamo perché a Fabio lo ascoltavo bassissimo, vedremo che la lancetta non va bene parlando. Vabbè, forse non hai sentito, no, ti abbiamo rilanciato il verso, ma questo è diverso da quello che avevi prima un'oretta fa, Claudio. No, è sempre lo stesso, ha cambiato qualcosa. Ma adesso ti stai aiutando. Sì, togliene tutto che non c'è bisogno, cazzo, di uscire così, perché poi ti mangia la modulazione, sei leggermente saturo, ti ascolto bene, però ti cambia la modulazione, ti ho detto esci benissimo senza niente, ti ascolto oltre 9, 9, 10, che bisogno c'è? Sì, quanto è adesso, mi puoi dare un controllo? 9, 15, poi quei picchi positivi arrivi quasi a 9, 20. Ok, dai, puoi anche attaccarlo con la stufetta, non c'è bisogno. Vai Fabio e poi doppio rumo. Scappa, saluto di Chioro, se mi ascolti, lo vedo di sempre passo. Sì, appena saturo, ma strano, di solito arrivo da te, va bene, poi mi dirai come ti arrivo. Già, ti saluto. Ciao anche da Ruggito, mi hai sentito? Ti abbiamo rilanciato in tre, forse sei tu che non hai sentito, ti ho rilanciato io, ti ha rilanciato Fabio, anche Riccardino, boh, deve essere che non hai sentito. E allora così sta uscendo una meraviglia, pulita, chiara la voce, il segnale se più di 9, senza bisogno di aiutini, non so se loro ti ascoltano perfettamente, avanti Gianni che sei più lontano. Prova, che la ruggita. 5 e mezzo, sì. No, lo devo lasciare, avrei cercato di metterlo a 4. Vedrai che non avrebbe saturato nulla. A 4 devi mettere, poi quando esci con lineare, se usi sempre lineare, a 4 va bene. 4 watt. Vabbè, comunque già sta uscendo bene adesso, dai, va bene. È che con l'attacco un po' ti mangia la radio. Aspetta, ti ascolta Fabio. Fabio, lo ascolta. Ah, va benissimo, perfetto, sono pure contento, guarda, perché finalmente esce bene, però secondo me continuano ad avere problemi di cabetti eccetera, perché si parlavano benissimo, arrivavo benissimo a chiodo, adesso invece non sto arrivando. Forse l'eccezione in cui si è collegato tra l'antenna e l'apparato, stanno un po' abbassando il segnale, non sono precisi, capace. Ascolti a Fabio Claudio. Sì, no, sta utilizzando un microfono normale, comunque è già buono il segnale, Otto, sono contento, dai, almeno ci ascoltiamo più o meno tutti, sarebbe stato brutto se pari che tu devi per forza attaccare per farti sentire, sono contento, dai, è meglio, sono conversazioni tranquille, senza avere disturbi di dire cosa hai detto, non ho capito, a me quelle conversazioni così io le odio, preferisco molte volte stare male in disparte, perché non devo stare ogni volta, cosa? Abbassa, cosa hai detto? Poi magari se uno gli dice abbassa, si offende, o se dici guarda che sta uscendo male, si offende, e preferisco molte volte starmene zitto, in disparte. E infatti è così che si fa, si usa solo, esclusivamente quando si fa gli ex, oppure si mettono la portante per passare, ecco per cosa si usa il lineare, non sempre, e cosa ne fai? Arrivi bene lo stesso, sempre tu lati quell'antenna, vedrai che arriva ancora meno. Ma il cavo l'hai messo nuovo comunque. Eh certo, ma io la prima cosa che ho detto con l'antenna sicuramente è il cavo. Poi cos'è che avete tarato? Non ho capito. Con l'antenna deve essere altrimenti dal punto più vicino di terra, diciamo dal solaio o dal cornicione, per avere un'irradiazione e non avere riflessioni di cosa, perché ti possono creare, ma con le stazionali anche se sono 1,4, anche 1,5 già vanno bene, naturalmente più scendi è meglio, ma fino a 1,5, 1,6 non hai grossi problemi. Il problema è quando inizi a superare il 2, a quel punto deve stare un po' attenti, soprattutto se attacchi lineari per cui i rientri sono molto molto alti, diciamo utilizzando 4-5 watt, se c'hai 0,03 watt di rientro o mezzo watt non è che ti fa niente, ma se c'hai 3-4-5 watt di rientro quando ne hai 100 sull'apparato puoi fare dei danni. Ehi, facciamo riprendere adesso a Fabio che è in parcheggio, da un po' avanti Fabio. Scappa, sto comandando la telecamera, infatti il parcheggio di meglio. No problem, guardavo un po' di stazioni eccetera. Mi dispiace che c'è tante difficoltà a sentirlo. Secondo me deve aspettare tutto, mettere il cavo nell'apparecchio e ciao. Perché anche un'altra volta ci stavo riflettendo, ho notato che non aveva il lineare e parlavamo tranquillo. Attaccato il lineare non mi sentiva più. Allora è troppo il lineare, ho del capetto, boh. Prova a metterlo diretto il cavo dell'antenna, escludendo il coso, l'accordatore e il lineare. Claudio, così magari riesci ad ascoltare meglio a Fabio, perché quelli ti danno delle attenuazioni, sono diverse cose, alla fine te ne tolgono anche un dB e mezzo, non è poco, i segnali che sono per dire a 5 magari scendono a 4. Ora sta 1, 2, 3, prova a chiodo che mi ascolti. Allora c'è qualcuno che sta disturbando, non so se vuole entrare, una domanda, ti ho detto elimina anche le rosmet, tanto se metto ce ne ha 1 e 2, 1 e 3 non succede niente, direttamente il cavo dell'antenna lo attacchi direttamente all'apparato, quello che volevo dire. Ok, c'è qualcuno che vuole entrare o non lo so, avanti che vuole entrare su questo canale, quando stava parlando Capri li metteva a portate, vai già. No, sta uscendo anche male, forse non sta uscendo di radio, Deonci tu sì. Ascolti qua. Adesso sì. Quando? Sì, adesso ti ascolto, Leonci. Ma sono io di male di radio. Prima non stavi uscendo, ci va solo il VIP, da lì che ti ho riconosciuto. Ah, va bene, sono qua una cosa. Sta uscendo un po' maluccio di coso, di radio. Il segnale è buono, ma la radio è poco chiara. Vai, Fabio. Caffa, io sono da solo. Tiro giù lì e non capisco niente. Vabbè. Niente, adesso vediamo se chiedo sempre meglio. Grazie, un saluto a Leoncino, non credo che mi ascolti. Ascoltato a Leoncino, Mi scusa, Fabio Leoncini. No, negativo, non lo copio. Ok. Tu dove sei? Lima Delta, se non sbaglio, così Leoncini. È vicino a casa. Come vicino a casa? Vicino a casa mia. Ah, non è la Pedroccia, pensavo fosse la Pedroccia. No. Ma non ha un'antenna buona lui? Non ce l'ho bene, ma non lo so, non c'è ancora ce l'ha con l'antenna, cosa stai usando? Ho messo la cosa, ho messo il cavo di là. Quella che aveva già nella macchina, che adesso non mi viene il nome. A turbo 2001. A turbo 2001. Ah, stai uscendo con la turbo 2001. Ciao, allora sei, sta andando bene. Sei Santiago 9, io pensavo che ci avesse un'antenna 580. Vabbè, la turbo 2001, da sotto casa, uscivo quanto la manto, vai in macchina. No, non ce la fa bene allora, sta andando bene. No, io pensavo che avesse un'antenna di quelle, tipo quelle che avete voi, che è master o cose del genere. Ok, vediamo se Capri è rientrata, avanti. Guarda un pochino, Chioro, tu mi ascolti? Non mi provocare. Adesso com'è la radio? Un po' più alta? La magia della tecnologia, eccomi qua. Qualcuno siete peggio? No, fa meglio così. Lascialo così la radio, perché la abbassi? Oh, per non disturbare, per non far sentire tutti i rumori di fondo, eccetera. Capito? La cosa è un po' bassa, anche per non innescare la fine frequenza. Ma no, guarda che qua il rumore di sottofondo non se ne sente, ma è pulitissimo. Bene, l'ho fatto? A me non è cambiato niente, io ti sento sempre bene anche come prima, non ho fatto differenze, forse in lontananza la radio si alza un pochettino, ma la parte mia è sempre, se è talmente forte, se è 9 più 30, per cui non ho problemi ad ascoltarti. Quello che voglio capire, c'è un segnale di 8, lo sentivi, non riuscivi a capire quello che diceva, così confermi Claudio. Il bombardamento arriva. Ok, quindi la radio non gli dai 5 a cosa, a Fabio di radio. Ehi, mi sa dallo scoppio che ho sentito c'è Antonello Pompù. Buonasera a tutti, ben sentiti. Sto facendo il suo, vi ascolto. Che sognambulo, tu come entri? Tu appena entri sei un bombardamento, poi ti stabilizzi. Va bene, 2 minuti, dai, che sto facendo il suo, ci sentiamo fra poco. Io ho sentito prima l'esplosione e poi la voce. Cos'è che la è Gianni? Cos'è? E quando ti arriva a te invece Fabio Gianni? Ciao Damuro, sono ben sentito. Gianni di Damuro. Lo sta dicendo Gianni più lui, quando ti arriva a te Fabio? Che cosa? Fabio, quando ti arriva a te? Prova a Quando arrivo? Santiago 4. 4? No, allora c'hai lo Smith d'Avaro tu già. No, non ce l'ho a fare, è normale il mio Smith. Segnala tutti i segnali di aggiusti. No, non è Avaro, è sicuramente non è, è in direzione mia l'antenna come l'ha messa. Di radio lo sento bene, dai. Probabilmente la zona è più favorevole la tua che la mia. In linea radio magari si vedono le antenne. Vabbè, forse come ha detto Gianni, quella zona lì probabilmente l'antenna sua è più direzionata verso altre parti, come a me coso, come si chiama? Manuele, infatti per essere in zona di Laterocce mi arriva bassino, arrivava a 7, qualche volta 8, però mi ha detto che l'antenna è un radiale orientato verso San Camillo, per cui probabilmente è giustificato tutto il discorso. Cosa volevo dire? Mettere il muro su quanto ti arriva a te Gianni? Prova Gianni Capito. Io Santiago 6, Radio 5 ti ascolto, avanti break. Salve a tutti, chi c'è rimasto? Ho finito di mangiare, sono cotto. Comunque saluto a Gianni, a tutti e due i Gianni. Poi saluto a Roberto se c'è ancora e a Fabio se c'è ancora. Scusate, mi sono fiondato. Ci siamo tutti qua. Cos'è, polpettone oggi? Più o meno, oggi eravamo di polpette in salata. No, ce lo manca mai, oggi niente cassata, dai, va bene, vai Fabio. Campa di Casino, ben tornato dalla carica batteria, allora che sia bello carico, già mi immagino le sue, vedi che vuoi innescare il microfono, fino giù, ascolta, ma di radio come mi senti, più alto di poco fa? Sì, va meglio. Io guarda, non posso sentire parlare di mangiare perché sono con uno yogurt e con un arancio, non ti dico altro. E beh, come sta Tyson? Anche lui cosa ha mangiato oggi? Tyson ha mangiato petto di pollo con la pasta e due pugni di crocchette della Trainer. Cioè, ha mangiato meglio lui di te? Certamente che sì, ma io ho mangiato così perché io devo fare delle analisi, sennò poi mi frusta il dottore quando vado a fare la visita, capito? Ciao, passa quindi anche oggi la vita da signore. Capo, il peso sempre, peso non gli manca mai. Vabbè, io gli do, petti di pollo, o gli do il rene, oppure fegattini, vanno dai metti martedì solitamente a comprare i fegattini, ma adesso ne ho, questa settimana ne ho, compro i fegattini di pollo, anche gli stomaci li do, li mangio molto volentieri. Caffa, noi al massimo diamo crocchette perché sai quanti ne abbiamo, a cucinare per tutti non ce la faremo. Lo so, tale allevamento sono così. Guarda che peso, quando a me l'hanno dato, mangiava solo crocchette. Io ho fatto l'errore praticamente perché ritenevo che queste crocchette sono troppo asciutte e mi piaceva, anche come faceva le feci. E allora ho ritenuto opportuno dargli qualche cosa di umido e ho cominciato a dargli pasta, carne, eccetera, eccetera, lui si è abituato così. E se adesso gli dà le crocchette da solo non è male. Caffa, l'hai viziato troppo. Insomma, per me è come un figlio. Vabbè, anche la mia Harley è come un figlio e qualche volta di solito tutte le sere gli porto la carne macinata, ben cotta e tutto, e gliela porto a tutti e tre. E quindi non li tratti come hai detto tu che sono a crocchette, gli dai qualche cosa in più, vai. E a volte gli faccio anche il riso gli metto carne macinata di cavallo. Caffa, no, i miei cani non ne vedono carne di cavallo mai nella loro vita. Comunque sì, qualcosa gli do perché per il pelo, perché così il pelo, come dire, si rinforza e è più forte anche d'inverno quando c'è freddo, perché sono i pastori australiani quelli che mi ha pastore che hanno tutto il pelo. Caffa, è anche il mio, ogni stagione lo cambio, vabbè. Comunque ognuno decide cosa dare, c'è gente che gli dà gli avanzi da mangiare, che gli dà la pasta col sugo, io tutte queste cose non gliele do, la verità, la pasta deve essere rigorosamente senza sale. Caffa, io comunque, no, io ho sempre le solite cose, quello, cioè, infatti no, loro lo perdono sempre il pelo, lo vai a toccare e alzi la mano da quando hai toccato il pelo e ti ritrovi una pelliccia in mano. Devi spazzolarli, Riccardi, io lo spazzolo di mattina, ogni mattina li faccio la toilette, pulisco gli occhi, lo spazzolo, li pulisco le orecchie, le zampe, il pisellino, il sederino, tutto. E anche noi tutti i giorni quasi, non tutti, lo spazzoliamo, spazzoliamo solo, gli diamo una pulita, però non gli diamo troppa importanza perché sappiamo che quando giocano poi si sporcano di nuovo lì. Beh, in campagna è così. Avanti, no, Fabio, riprendi. Campa, ciao. No, no, viene dai cani in giro, per adesso. Anche perché per tenere i cani come dico io ci vuole tempo, perciò il tempo non ce l'ho a disposizione. E dunque sto attento a non innamorarmi, perché se poi mi guarda un cane con gli occhi dolci, eccetera, e mi ricorda magari qualche animaletto che avevo, mi piglia male, poi decido di dedicare la vita perché c'è possibile di passare meglio su di me, capito? Sì, sì, a volte ti dico, preferisco dare un pasto a lui, io mi accontento la sera di mangiare qualche caffè, qualche cosa così, pezzo di formaggio, di salsiccia, pezzo di gorgonzola, ecco, Allora però li faccio sempre una cazzo. Ho visto che gli scegli le cose, le cose di kit per farlo contento. È una cosa molto carina, ma infatti, cioè, dalle facce che fa le foto si capisce che sia un padrone sereno, che è un cane sereno. Te l'ho mandata dove stavo parlando con lui? No, però ho sentito un paio anche nel suo telefono. sempre contento. Aspetta. Facciamo riprendere a Muros, avanti Muros. Secondo, riprendete voi che sta facendo l'acqua. Ehi, a voi il cane di Riccardino, quando la moglie di cucinare, era 10 euro, poi se la compra lui la roba. Dallo strumento Lulu, io l'ho conosciuto di persona dal vivo, ma oltre essere un grande comico, cabaretista, se voi lo conoscete cantando, vi mettete le mani in testa, o suonando, mamma mia quanto è bravo, è completo, un artista completo. Faccio una chiamata, arrivo subito. Eia, ok. Vabbè signori, io adesso vado a nanna, vorrei ritardarmi un pochettino, però preferisco andare a dormire adesso, no, domani è un po' pesante, siamo a inizio di settimana, per cui vi saluto tutti, iniziamo a salutare i più lontani, Claudio da Muros, il babbo Gianni, poi Doppio Room, Fabio, Riccardino e eventuali qua amici qua in ascolto. Ciao ciao, è sempre un piacere fare delle conversazioni così tranquille e interessanti. Ciao di nuovo a tutti, QRT da parte mia. Roberto se ne sta andando e lo saluto. Ciao Roberto e alle prossime, ci sentiamo, è andato in carica pupille. Ciao Roberto, salutoni, sempre un piacere sentirti, è sempre un piacere organizzare il QSO con te. Perciò buon 144, buon tutto, ci sentiamo sicuramente anche domani. Gianni per i saluti. Ciao Robert, dai, buonanotte, ci sentiamo, a domani. Avanti, riprendi Fabio. Adesso riprendi Fabio. Hai detto riprendi Fabio, Gianni? Sì, Fabio, dai. Che campo, io sono di bagno un attimo con GB. Ti mando avanti Chiodo e rientro tra un minuto. Ehi, vai. Vai Chiodo. Vabbè, è morto, sì. Poi Fabio, vai a guardarti quel video. Ehi. Esatto. Sì, sì. Ci sei affondato. Fammi, guardati il video. Cos'è? Guardati Tyson cosa fa con me. Caffè se lo apro. Non è arrivato ancora. Buonasera a Toto Giorgio. Ecco canale 10. Buonasera. Avanti Antonino. Ce n'è uno, attenzione, canale 10, chi è avanti, buonasera. Buonasera a tutta la truppa. Cordialità 73 e volevo chiedere a Fabio se mi può mandare il suo numero. Sai di chi? Cazzo, adesso ti mando il numero, sai di chi? E buonasera a nuovi entrati, a Manetta, 06 0 radio, di Acuto, Torino. Ti saluto, manda avanti chi è arrivato con te. Scappa, ciao Fabio, per sentito, ciao Gianni, ciao Riccardino, 7351 anche a te, e poi eventuali amici che non so chi c'è. Avanti con attenzione canale 10. Buonasera a tutti, Gianni Dubrofetta qua, centro storico da questa parte. Salutoni a 360 gradi a tutti, avanti. Ciao Gianni Dubrofetta, ben sentito anche a te. Avanti Riccardino. Ok, grazie Tonino per il mic, saluto a Gianni Lubrefetta, da tanto è dal paleolitico che non ti ascolto. Ehi dai, bocca voglia, ciao Riccardo, buonasera, ciao Tonino, Gianni, Fabio, poi non so che ci sia in ruota, l'ho acceso adesso, sono rientrato in questo momento, ho appoggiato le chiappe sul letto e ho acceso la radio. Comunque, salutoni a tutti, dai, avanti Tonino. Cappa, come ti arriva te Gianni, lì, centro storico? Ottimo e abbondante, sorpassi il 9, vabbè, lo smitter di Ferrario è a Contesuio, comunque il segnale è ottimo, abbondante, la radio pure. Più che altro il segnale della radio, capito? Va bene, ok, Gianni, doppio whisky, avanti. Ehi, ti mando un attimino in QRX che sto rispondendo a dei messaggi, e entro subito, dai, ricordati. Ok, vabbè, va bene. Fabio, ripeti. Capo, me lo prendo io un attimo il microfono per allontanarmi 3 minuti per una pasta, e arrivo, torno subito a una partita a casa. benissimo. Riccardino, avanti. Papà, va bene. Ci sentiamo, cosa sto dicendo? Comunque, già, com'è che non hai più voglia? Come tutte le cose, no? Se mangi tutti i giorni pasta, poi la fine ti stanchi. Succede un po' per tutti, dai, poi ci sono anche altre cose più importanti da sbrigare. Beh, comunque sono contento che stai uscendo forte. Adesso ho visto che c'hai l'imbarazzo della scelta, hai radio. Sei molto fortunato, dai. Comunque, va benissimo così, dai. Adesso ti ascolto molto bene rispetto ai giorni scorsi, comunque. Non so se c'era qualche problema, stai avvisando comunque un'altra linea, non lo so, comunque. Ti sento forte e chiaro a queste latitudini. Ok, grazie Gianni, sì, adesso vabbè sto usando un baracchino, però se mi ci sta andando bene, ti ringrazio anche dell'opinione. Sì, stavo usando un'altra linea prima, adesso oggi ho attaccato l'Intec e ho provato con questo microfono Farner ed è una bomba, mi stanno dicendo, quindi per adesso lascio questo. Bene, Meda, per le mie orecchie sei oltre, come si dice, 10 e lode, dai. La radio è buona, l'audio è perfetto, il segnale idem con patate, va tutto molto bene, quindi non tocca se è puntella, come si dice qua in frequenza, è puntella e fai girare, vai. Sì, no, non tocco niente, va bene così, tanto ormai è stato un ablasto, se va bene così non tocco neanche le regolazioni che sono state fatte. Come hai detto tu, non tocco se si dice così. Riccardi, ti stai portando dei rumori appresso? Dei rumori appresso, sì, come non schiaccio bene il PTT, hai ragione, Tony. Che scappa. Per te, più o meno, siccome il centro storico è grande, che zona sei il centro storico? Un secondo, anche a te, scusami, K2. Ho fatto una domanda all'Uprefetto. Kappa Rosmetro, zona stazione. Zona stazione, zona fermata Sirio, comunque fine corso Vico, dai. Ok, ci arrivi bene, dai. No, perché io sono in campagna, io sono fuori Sassari. Quindi. Avanti, K2, chiedo vigne, dai. Non sapevo che c'era anche tu. Riprendi. Perfetto, K2 9-10, radio 5 perfetta, è tutta un'altra cosa, dai, non come il tempo fa che eri veramente messo male. Anche tuo figlio arrivava un po' pio a livello QRM, adesso va bene. D'altronde cos'era il capo messo male? Ciao Gianni, K2, buonasera, ben ascoltato, ho acceso esattamente 2 minuti fa, ben sentito, scusami se non ti ho salutato poc'anzi, ma sono entrato, come si dice, in frequenza a gamba tesa. Comunque, salutoni, qua arrivi più forte del solito, e niente, comunque, buon lavoro, ho visto che insomma il lavoro ha dato i suoi frutti, e quindi bene merita, come si dice, da... come si dice qua, dai, comunque qua ti ascolto molto bene, con la mia piccola stazioncina, quindi è tutto grasso che cola. Bene, bene, dai, ok, dai, Riccardo, avanti. Ok, scusa, grazie, Gianni. anche da questa parte sta andando bene, comunque Uros, e gli volevo chiedere una cosa, per caso il numero è sempre lo stesso oppure no di casa? Stai uscendo male, Riccardì. Mamma mia, devo cliccare bene il CCC. Volevo chiedere a Muros, e il numero di casa è sempre lo stesso? 5 stelle, ciao Riccardo, no, ma non lo prendo ad attaccare il nuovo, il ca, hai capito? Ancora, no, ho cambiato, l'ho detto a tuo papà, gli ho cambiato compagnia e mi lo prendo a fare il nuovo numero, avrebbe, hai capito? E niente, tu chiamami al cellulare quando vuoi, Riccardo, ok? Mi ho un po' di quell'eme, ti ascolto, Riccardo, ma tanti volte c'è quell'eme, comunque ti sto ascoltando, Riccardo. Chiamami dopo il mio telefono stasera, possiamo essere in un problema a Barbara, mi capito che è stato interessato, e riesco a porre con te poi, diciamo, a gestire, a portarmi qualcosa, hai capito, perché io ho fatto, e mi funzionava solo con la mia casa, ricordo, sento più un piccolo grande, e metti grande la mia attività, e funziona più, però, va bene Gianni, sì, ci sentiamo, comunque ti faccio una bassa al telefono quando devo chiedere qualcosa al telefono tuo cellulare, e va bene. Rilancio, mi sembra c'è ancora l'open room. Via, ci sono, vai. Non so che dire perché sto guardando un filmato, il fatto di Vamucca. Ilia. Ginko mi ha detto di salutarti, mi sono dimenticato poco fa. È entrato, ha detto non so se rientro, magari se poi rientra tu non rientro anch'io. Invece poi non è rientrato, deve essere la fatta il solo. Si è addormentato via. Ilia. E vabbè, che ci vuoi fare? E tu Riccardì, non mi chiami mai? No, non ho il tuo telefono cellulare, il numero. Ce l'hanno tutti, l'ho dato in frequenza una volta. Sai quanti messaggi mi sono arrivati? Moniglia, tutti di che porco ero. Comunque volevo dire a Gianni di Muros che ormai mi ha provocato e quindi ho dovuto attaccare il baracchino con un finale un pochino più grosso. Ok, Riccardo, chi è che ti ha provocato? Provocato perché hai detto che c'è che sentivo c'era a Santiago 6 un po' di QRM e adesso quanto sono? Adesso sei quasi 9 e passato per appena. Vieni cani, quando ti va a attaccarlo non c'è niente da fare, attacca, comunque è un vecchio veterano, già te l'ho fatto contento, guarda, mi ha commosso, mi ha detto poi che io stasera mi amico del figlio del mio amico, ripeto bene, quindi ero un po' così stasera e infatti io però adesso lo conosco, lo conosco, hai capito, perché può fare la tua cultura, capito? Vieni, quando c'è da attaccare, attacca, attacca, quando mi riconosco a Chiaume, attacca, se te vai, attacca, ricordi, devo dire che amica, perché quando si muove, riprende i cammini. Babbo mi ha anche spiegato perché ti chiami Gianni Capri 2. Perché tu insieme al Capri. Sì, c'è lui il Capri 2. L'altro è importante. La profitta è carica. Me! Come la mai? Da quella carrozza che ti fanno per la... Ma per la carro, vedi qua nel cartolone, visto, con la quartiera esterna, ma me ne avevo comprato un altro, ma è a tempo. Il Capri 2 è il codice che si chiama che mi ha lanciato alle prime altre, poi è passato infatti 123 e poi sono passato, non lo sapevo che Catalina va pure lì, ho usato questi circuiti e sono ancora in corsa. Ok, bene, bene, da Tony, hai visto anche a Nicato in coro, non l'hai più visto, non mi rendo. No, negativo, non l'ho più visto. Niente, ho visto che l'officina dove sono ultimamente, via Isabellino attraverso il Corso Vico, era aperta. Adesso non so se c'è il figlio, bisogna che ci faccio una scappata in macchina. A vedere se c'è il figlio o chi c'è. Non sarà andato in gestione, non lo so. No, lo so. Comunque. Capri 2, stai con le capre. Mi visto spontaneo, sono un tipo, diciamo, alla prima, quello che penso dico. Tutto qua, comunque scherzo sempre, dai. Quando si scherza si scherza, se si va sul serio si va sul serio. Riccardino, avanti. Comunque non ho capito, Gianni se ne stava andando, comunque lo saluto. Ciao Gianni e alla prossima. No, alle prossime. Cosa invece certo. Ma che Gianni sta andando via? Mi è sembrato, se non sbaglio, doppio room. No, non è cattivo, non sto andando via, io sono qua. Tu stai dando i numeri, Riccardo, a quest'ora non ti funziona più la testa. Capri 2, dammi un controllo a me, guarda come sta arrivando, c'è il radio di Santiago, grazie. Insomma, il più piccolino sono io che sono fuori sasse, eh? Appagato. Riccardo, poco fa tu qualche attaccato per arrivare con il 5. Non lo vorresti sapere, te lo scrivo via messaggio quanto ho attaccato. Via, ho fatto una comparazione. Un profeta. Eia, sono qua, sono qua. Io forse sono il più piccolo di tutti qua, dai. Con la mia boomerang. Ecco, non t'ho fatto in radio. Beh, comunque dai, mi faccio sentire un po' dappertutto. Tu mi senti, Gianni mi sente, Riccardino uguale. Adesso non so, Capri 2 come mi ascolta lì a Muros. Capri, come mi ricevi? Capri 2, hai copiato. Si è allontanato, dai. Io sono più piccolino che sono fuori sassale, dai. Che come antenna c'ho lo spaghetto. Uno spaghettino piccolino, ancora più piccolo del tuo. Comunque a te Riccardo già ti arrivo bene, dai. Sì, già stai arrivando bene da questa parte. Riccardo, come ti arrivo io come segnale? Come segnale, tu mi arrivi. Basta il segnale, però la radio è buona, sa cosa sarà un Santiago 5. Come detto, uno smettere un po' avaro. E comunque sarà Santiago 5, però la radio è buona, 5 sempre. Bene, merda, bene, merda. Come le zanzare, piccole e danno fastidio, dai. Avanti doppio. Vabbè, sono contento, dai. Anche io arrivo, ma tu arrivi bene, non solo che arrivi anche bene già. Vabbè, con l'antenna io a volte rimango a bocca aperta, dico capo, la boomerang che fa il lavoro di un'antenna grande. Ma veramente bene. Perché tutti l'hanno sempre definita un'antenna direzionale quella, eppure tu in tutte le direzioni vai bene. Gianni, dubbio. Ma come hai visto il rumore di fondo? Hai attaccato il motoscafo? Dubbio. Devo smontarlo, la ventola dell'alimentatore che è rumoroso, la devo pulire. Facciamo un accetto, ok? Già, un consiglio. Quando smonti la ventolina, di solito c'è un adesivo dietro. Praticamente una volta che levi l'adesivo c'è un fermino con una rondella in plastica, ci metti un goccio d'olio, se hai olio Singer di tipo macchina a cucire sarebbe anche meglio, gli metti un goccio d'olio lì e va perfetta. Guarda, io c'ho un olio che poca gente c'ha, c'ho l'olio che usa la zona industriale per gli ingranaggi, un olio di paraffina, quello lì dovrebbe andare ancora meglio. Gianni, il mio occhio è migliore del tuo, è l'olio di paragnosto. Brava, avanti Capri 2, che si è spostato. Avanti Riccardo. Si è spostato, ha bruciato tutto. Non ha bruciato tutto. Deve sì, però Riccardo deve avere almeno la costanza. Quando schiacci, qualche secondo, silenzio e poi parli. Perché ti mangi la prima parola, ecco, l'ho dato proprio fatta, l'avevo detto anche l'altra persona. persone. Tu c'è la festa e parli, lo so, non è come il microfono che abbiamo noi, che schiacci e parli. Devi aspettare qualche secondo e poi riparli, se no riesco a capirti di dopo, cioè, qualche parola. Cappasa, va bene, me ne dimentico sempre, perché adesso anche oggi stavo usando altri baracchini e infatti con quelli ero abituato a cliccare e parlare, invece con questo no, perché...